ore 8.39 del 9 febbraio 2005. Ieri ho assistito a una partita di calcio che non è stata Italia-Russia, ma Italia-Jugoslavia del 68. Può sembrare bizzarro che io parli di una partita di 37 anni fa, il giorno dopo una regolare esibizione della nazionale di calcio, ma il motivo è che non ho potuto neanche vedere la partita in diretta ieri sera perché Italia-Russia era criptata sulla versione satellitare della Rai per una questione di diritti. Mi viene veramente da chiedermi chi possa essere così stupido da pensare di acquistare i diritti di una partita così insignificante per tutta l'Europa. In ogni caso, è stata una bellissima visione, piena di, così, di, non di ricordi, perché nel 68 io ero appena nato, però indubbiamente piena di significati. La partita Italia-Jugoslavia del 68, che si è svolta in un'atmosfera ancora molto fatata, ingenua, o quantomeno questo è la sensazione di contrasto rispetto al calcio di oggi, così appunto disincantato, così malizioso, violento, se non sul campo, indubbiamente violento nelle varie lotte intestine, nelle varie lotte tra fazioni politiche, economiche e così via. E il calcio del 68 era qualcosa di profondamente diverso, e anche l'Italia era profondamente diversa. La cosa più colpisce innanzitutto è il fatto che si svolga in uno stadio olimpico ancora non ristrutturato, uno stadio forse meno comodo di quello di oggi, ma meravigliosamente inserito nella collina di Monte Mario, quasi invisibile, con questo suo fascino discreto. Proprio in questi giorni sto leggendo un libro di Piero Stilio Rossi, che è un noto studioso di architettura, che appunto parla delle rivoluzioni architettoniche a Roma negli ultimi cent'anni, e parla dello stadio olimpico come qualcosa che era nato per esigenze così di parata politica in stile Norimberga, con lo stadio dei cipressi che doveva appunto servire per le manifestazioni militari, per i grandi raduni, poi è diventato un impianto sportivo prettamente olimpico, che in qualche modo doveva anche riflettere l'ideale olimpico, e a un certo punto è diventato invece una macchina da soldi, ed è quello strano catino tutto coperto che è stato realizzato nel 90, indubbiamente una soluzione molto funzionale, ma dal punto di vista estetico ha significato la definitiva consacrazione di tutta questa zona, che ha un certo rilievo paesaggistico e naturalistico, come appunto la collina di Monte Mario, al rito domenicale. Tornando alla partita del 68, fu una partita in cui, furono in realtà due partite, perché fu una finale ripetuta. La cosa che colpisce è la passione e la sofferenza del pubblico sugli spalti, che grida Italia Italia, riconoscendosi indubbiamente nei valori della patria che la nazionale di calcio rappresentava. Oggi invece il grido Italia Italia che ancora si sente, per esempio ieri a Cagliari si è sentito, ha dei significati completamente diversi. Nel sud è la rivendicazione di una diversità rispetto al nord, dove Italia Italia negli stadi non si grida ormai da decenni. Un'altra cosa che subito risalta è la tecnica delle riprese televisive per una manifestazione comunque internazionale importante come era la Coppa Henri Delanoë, a quei tempi si chiamava il Campionato Europeo per Nazioni. La Coppa è rimasta la stessa, ma la denominazione evidentemente non piaceva agli sponsor, all'UEFA. Insomma, fatto sta che erano solo quattro le telecamere dispiegate in campo, per quei tempi era già molto, c'erano poi queste immagini un po' rubate, c'era un'illuminazione appena sufficiente per poter riprendere la partita in bianco e nero, ma comunque una grandissima atmosfera, e al termine della partita una spettacolare fiaccolata. Anche questa è una manifestazione di, più che di tifo, direi una manifestazione di gioia che rimanda alle processioni dei nostri paesi, però su scala più grande. era veramente un'Italia molto diversa, che già sentiva il fiatone al termine del boom economico, sentiva chiaramente i fremiti del 68 e si avviava agli anni bui, quegli anni 70 così, così drammatici anche per il nostro paese, da far sembrare per esempio i film prodotti negli anni 70 addirittura più vecchi di quelli prodotti negli anni 60. Non so se anche voi avete questa impressione, ma sembra quasi che negli anni 70 le pellicole siano di qualità peggiore, le immagini siano più rubate, mentre negli anni 60 il clima era completamente diverso. E in mezzo naturalmente c'è stato il 68 con tutte le sue grandi pulsioni, ideali, con questa grande voglia di cambiare, che però mi si permetta di fare una considerazione molto magari opinabile, però che sento veramente nel profondo: il 68 per una grande maggioranza di persone non ha rappresentato affatto la capacità di creare idee nuove, semmai anzi l'esigenza, la volontà di adeguarsi, di omologarsi a delle idee prêt-à-porter, delle idee facilmente riconoscibili. Io francamente credo che anche gli studenti francesi che sfilavano agitando il libretto di Mao non avessero idee nuove, anzi avevano semplicemente bisogno di un leader, di un modello alternativo, senza poi necessariamente doversi riconoscere, dover capire veramente che cosa potesse significare l'applicazione di quel modello. È stato soprattutto un fenomeno di costume, non è stato in grado di produrre quei cambiamenti epocali che si proponeva.